Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I brand sono i nuovi editori. Quante volte lo abbiamo ripetuto? I prodotti sono i loro media e vanno riempiti dunque di contenuti. Non basta più solo comunicare il prodotto, bisogna offrire storie da condividere in cui il consumatore possa riconoscere uno stile di vita, una visione, un mondo valoriale comune. Oggi vi raccontiamo in anteprima un'iniziativa che a livello internazionale ha già fatto scuola, ora arriva anche in Italia a firmarla. È un brand come Coca-Cola. Torniamo poi a parlare di sharing economy con un'altra esclusiva. Sono dati che verranno presentati domani a Roma nel corso della seconda edizione di Share Italy, l'evento di riferimento per l'economia collaborativa nel nostro paese. Sono numeri che raccontano una crescita importante dei servizi di sharing nel nostro paese, numeri di un settore che da moda inizia a diventare un vero e proprio modello. Da dove passa l'identità, il patrimonio, il valore di una marca? Anche dall'etica e dall'impegno sociale, come dimostra un imprenditore che rappresenta una delle eccellenze italiane riconosciute nel mondo. Ora lancia un progetto per la bellezza, così lo ha voluto chiamare, un progetto che ha a che fare con tre parchi, un bosco, un oratorio laico, orti, vigneti e frutteti. Scopriremo tra pochissimo di chi si tratta. Puntata densissima. Nella seconda parte parleremo poi di auto e mobilità del futuro, per chiudere con una riflessione su fiducia e reputazione come nuove parole chiave nel mondo dei consumi. Vorrei cantare insieme a voi in magica armonia. Auguri Coca-Cola e poi un coro in compagnia. Ricordate? Era il 1971, nasceva quello che sarebbe diventato uno dei più fortunati spot della Coca-Cola, un vero e proprio cult della storia della pubblicità. Previste inizialmente in Inghilterra, le riprese furono spostate all'ultimo momento in Italia, sui colli intorno a Roma, e la produzione trovò a tempo record 500 giovani cercando nelle ambasciate e nelle scuole della capitale. Questa è una delle storie che dal prossimo 4 dicembre racconterà Giorni, il magazine online firmato Coca-Cola che trasforma la comunicazione aziendale, di fatto Journey sostituisce il sito Coca-Cola Italia, nel cosiddetto corporate storytelling. La versione italiana arriva a 2 anni dal lancio negli Stati Uniti e conferma una tendenza sempre più in evidenza. Molte grandi aziende hanno cominciato a pensare come delle vere e proprie media company, realizzando progetti editoriali. Ne abbiamo parlato con Vittorio Cino, che è il direttore comunicazione di Coca-Cola Italia. Journey è un progetto editoriale vero e proprio. L'obiettivo è quello di avere un format molto simile appunto nella costruzione grafica, ma anche nel concept, a un magazine, un vero e proprio magazine, e quindi sarà impostato, pensato e prodotto come se fosse un magazine di notizie. Saranno contenuti sia branded che unbranded, per così dire? Certo, ovviamente parliamo di un magazine comunque aziendale, quindi racconterà molto della storia di Coca-Cola, delle caratteristiche che contraddistinguono l'azienda e il nostro brand, ma ovviamente con questo strumento Coca-Cola intende anche aprire il dibattito su tematiche più ampie che non direttamente magari toccano Coca-Cola, ma rientrano nel suo sfera di interesse, le tematiche dell'innovazione, della sostenibilità, tutte storie, quindi racconti che hanno e dovranno avere anche una base fatta di notizie, di dati fattuali che contribuiscono e potrebbero contribuire anche a un dibattito più ampio su queste tematiche. Ci saranno anche contenuti locali oltre a quelli globali? Ci vuole fare qualche anticipazione delle curiosità, delle storie legate all'Italia che verranno raccontate? Coca-Cola intende soprattutto raccontare storie italiane. Ovviamente ci sarà una ripresa delle principali notizie e curiosità riguardanti il mondo Coca-Cola to cure, ma l'obiettivo, l'ambizione di Journey Italia è quello di raccontare storie locali. E giusto per fare un esempio, racconteremo nel primo numero di questo nostro magazine la storia della Fanta, perché pochi sanno che la Fanta come aranciata nasce proprio in Italia. Oggi Fanta rappresenta il secondo brand in termini di valore e di diffusione al mondo dopo Coca-Cola per noi, ma pochi sanno che invece il prodotto Fanta aranciata è nato in Italia nel 1955. 2000 storie pubblicate, 10.000 video, 8 edizioni internazionali. Dal suo lancio Journey è diventato un modello internazionale del cosiddetto brand journalism. Molte grandi aziende, oltre a Coca-Cola, penso a Samsung, penso ad Audi, General Electric, hanno cominciato a pensare come delle media company, realizzando appunto progetti editoriali. È una tendenza che promette sviluppi? Io credo proprio di sì, nel senso che è inevitabile. Lei giustamente cita alcune delle aziende più innovative su questo fronte e credo che queste aziende, compresa la nostra, stiano anticipando un trend che sarà fondamentale. La prima tendenza che certamente dovrà maturare ancor più è la integrazione di questi strumenti con il mondo social, dei social media, perché dovranno essere strumenti, come nel caso specifico il nostro, che dialogano e si integrano perfettamente con le nostre pagine Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, proprio per creare un dialogo a due vie con il consumatore, altrimenti non si può parlare di dialogo. Io ci vedo anche un'ulteriore evoluzione da storyteller a storymaker, con la genesi stessa delle storie da parte del brand. Sono d'accordo con lei. E in più, oltre a quanto appena detto, devo dire che c'è anche, ci sarà una tendenza, e questo sarà per esempio visibile anche nel nostro Giorno Italia nei prossimi mesi, la tendenza a far interagire, a far partecipare i consumatori chiedendo loro di raccontarci le loro storie. Any one of us can be a prosumer and produce and share. Ciascuno di noi può essere un prosumer, può produrre e condividere beni e servizi, sia con un basso costo marginale che con un costo marginale pari a zero, come avviene in questa economia emergente che è la sharing economy. Io non dico che il capitalismo è finito. Dico che si sta trasformando, perché il sistema capitalistico sta facendo nascere un bambino. Il bambino è la sharing economy e il commons collaborativo. Ora le aziende capitalistiche devono imparare a convivere con questa progenie, nutrirla, farla respirare, farla crescere. Nei prossimi 25 anni avremo due sistemi economici che fioriranno uno accanto all'altro. Il genitore, il capitalismo e la discendenza che ora è matura. Lo vediamo già. Vediamo molti giovani che vivono sperimentando sia il possesso che l'accesso, producendo e condividendo non solo video e notizie sui blog, ma anche energia rinnovabile, oggetti realizzati con la loro stampante 3D, auto con il car sharing, case e appartamenti su Airbnb. Quindi c'è una doppia economia che sta emergendo con la generazione digitale. Così l'economista americano Jeremy Rifkin, autore del libro La società a costo marginale zero, che sta diventando uno dei libri manifesto della sharing economy, l'economia collaborativa basata sullo scambio, la condivisione di beni, tempo, denaro, spazio e competenze. Un'economia che sta cambiando la cultura del consumo, diffondendo pratiche più consapevoli, basate sul riuso anziché sull'acquisto, sull'accesso anziché sul possesso. Un fenomeno che sta crescendo anche in Italia, come testimoniano i dati della ricerca che verrà presentata domani in occasione della seconda edizione di Share Italy. 3 milioni di persone in più rispetto ad un anno fa hanno condiviso prodotti e servizi nell'ultimo anno in Italia attraverso le piattaforme online di riferimento. È una crescita di quasi il 70%, pensate, per un fenomeno che arriva ad interessare ora il 22% della popolazione rispetto al 13% di un anno fa, come ci siamo fatti raccontare in anteprima da chi ha condotto la ricerca, Federico Capecci, esperto di comunicazione e ricerche di mercato digitale. È un dato molto forte, soprattutto per la velocità con cui questo è accaduto, perché oggi siamo addirittura arrivati al 22% della popolazione online, che rispetto al 13% di solo l'anno scorso ci fa capire quanto forte sia questo fenomeno anche nel nostro paese. L'anno scorso 13% era stato definito il tipping point, ora l'abbiamo superato. Che cosa significa questo superamento dal punto di vista delle prospettive di adesione alla sharing economy? È fondamentale perché il tipping point è un punto che viene affrontato da tutte le innovazioni e che sancisce il loro successo sul mercato e il loro fallimento. Sapere che oggi con la sharing economy l'abbiamo superato e quindi la penetrazione di questo fenomeno sta già andando nella seconda fascia oltre gli early adopter, che noi chiamiamo early majority, quindi una fascia che per motivi magari anche emulativi sta seguendo i primi innovatori, è un dato molto importante e rassicurante sulla diffusione di questa, che possiamo oggi chiamare ancora per poco innovazione di paradigma nel come i nostri utenti e la nostra popolazione affronta il possesso delle cose e l'utilizzo. Passiamo al profilo tipo di chi usa le piattaforme della sharing economy, un altro degli aspetti della ricerca. È un tipo di pratica che sta sempre di più coinvolgendo diversi tipi di persone, però bisogna riconoscere che anche in questo caso i nostri giovani italiani, quelli che io definisco generazione 2.0, ne rappresentano davvero il volano. Quali sono gli elementi che trainano in questo momento il fenomeno, quali invece quelli che lo frenano? Allora, vi sono delle cose facili da dire e da capire e delle cose più difficili, ed è questo il motivo per cui quest'anno abbiamo utilizzato delle tecniche statistiche piuttosto, come dire, sofisticate per andare proprio a capire quello che le persone non sono neanche in grado di dirci, perché è facile dire che per esempio tra i benefici maggiori, più riconosciuti, ci siano i benefici tipo economico, di risparmio, ammortizzare dei costi per esempio di manutenzione nell'utilizzo dello stesso bene è evidente a tutti, però ci sono altri aspetti quali per esempio un certo rispetto delle risorse che si hanno a disposizione, quelle economiche ma anche quelle ambientalistiche, il green, oppure una certa voglia di imprenditorialità che gli italiani hanno e che è, se vogliamo, la voglia di partire da se stessi a cambiare le cose dal proprio piccolo. Il freno maggiore dall'altro lato invece risiede in una certa diffidenza verso questo meccanismo, per una sorta di fiducia da un lato, ma anche proprio in difficoltà di capire proprio come praticarlo. Dalla ricerca emerge chiaramente anche l'esigenza di un quadro di regolamentazione del fenomeno. In che termini? Beh, un aspetto fondamentale direi a questo punto di diffusione, ed è questo proprio che rischia di, come dire, guidare l'ago della bilancia verso il successo o verso la frustrazione di questa voglia degli italiani, perché nessuno dei nostri intervistati mette in discussione la qualità del servizio ottenuto, dell'utilizzo di quel prodotto o la giustezza di questo nuovo modello, però il tema oggi è in mano alle istituzioni che hanno l'obbligo di intervenire su questo 73% di persone che dice che farebbe un uso di pratiche di sharing se solo ci fosse un quadro fiscale, normativo e giuridico chiaro e condiviso. Una battuta finale: da moda a modello è il titolo della vostra ricerca. Che cosa comporta questo passaggio? Comporta il riconoscere che non si tratta più di un fenomeno passeggero, se tuttavia diverse forze si mettono in campo in maniera sistemica, non solo gli utenti, dai quali ovviamente tutto è partito e che hanno un ruolo principale, ma anche le aziende e il sistema politico istituzionale. Tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Misura la bellezza può diventare la cifra dell'identità competitiva del nostro paese e della sua produzione di eccellenza. C'è un imprenditore, lo chiamano l'imprenditore filosofo, filantropo, umanista, che sulla bellezza dichiara di voler costruire la propria eredità aziendale e familiare. Stiamo parlando di Brunello Cucinelli, che ha annunciato la realizzazione di 3 parchi ai piedi dell'antico borgo di Solomeo, dove hanno sede la sua azienda e le tante attività culturali. Lo ha chiamato un progetto per la bellezza. Prevede la dismissione di 6 capannoni industriali e la creazione di aree verdi, un oratorio laico immerso in 6 ettari di boschi e prati e 70 ettari di orti, vigneti, oliveti e frutteti. Un progetto della fondazione di famiglia e non dell'azienda. Ecco come ce l'ha raccontato. Dopo aver finito i restauri al borgo, dopo 30 anni di lavori, immaginavamo quali potessero essere i futuri lavori nella nostra valle. dove vi sono ancora questi sei capannoni costruiti, diciamo, negli anni 70, 80, 90, con le regole del tempo, no? Con i colori del tempo. Una volta acquisiti, abbiamo deciso di riportare la terra al suo vecchio splendore. C'è una presa di coscienza, non è che è diventata l'etica e qualcosa di contemporaneo. Produrre, lavorare, arrecando meno danni possibili all'uomo e forse cercando di miscelare profitto e dono. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì. Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora! Lo spostamento temporale è accaduto esattamente all'1:20 antimeridiana e 0 secondi! Ah, mio Dio! Focus sui trend. Ve la ricordate la DeLorean di Ritorno al Futuro? Ci è sembrata la citazione migliore per introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo degli scenari legati all'auto e alla mobilità del futuro, sicuramente uno dei capitoli fondamentali del mondo dei consumi prossimo venturo. Lo facciamo come sempre con i ricercatori di Future Concept Lab. Carlo Ricciardi, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Da dove partiamo, Carlo? Io partirei da un progetto che conoscono più o meno tutti, che è la Google Car. Google sta mettendo a punto un veicolo che si guida da solo senza conducente. La fase di sviluppo però richiederà ancora un po' di tempo, per cui fino al 2017 questi veicoli non entreranno in uso. I problemi da risolvere adesso riguardano le situazioni nelle quali la Google Car trova qualche problema a causa di nebbia, pioggia e neve che azzerano la possibilità di marciare in sicurezza, e anche le zone nelle quali il segnale internet è assente, che quindi impedisce all'auto di continuare la sua marcia. Ci vorrà un po' di tempo, insomma, prima di vederla sulle nostre strade, ecco, diciamo così. Invece i segnali sul mercato di applicazioni già possibili quali sono? Allora, il primo veicolo commerciale senza guidatore in realtà è stato già venduto da alcune istituzioni, quali il Politecnico di Losanna o gli uffici dell'energia atomica inglese ad Abington, che usano questo veicolo prodotto dalla Induct, che è una società francese. La navetta si chiama Navia, trasporta fino a 8 persone ed è a propulsione elettrica. Questo tipo di veicolo però è progettato per luoghi specifici come aree pedonali, centri commerciali, aeroporti, insomma zone dove il percorso è più o meno definito e l'ostacolo più grosso che si può incontrare è un pedone. Teniamo presente che questi veicoli viaggiano a una velocità di circa 20 km orari. Quindi una circolazione molto protetta, per così dire. Esatto, esatto. Quindi non lo vedremo sulle nostre strade, ma comunque è un primo esempio di un'applicazione reale, non più di un prototipo. Si parlava anche di un progetto italiano simile. Sì, in effetti l'Italia ha una storia abbastanza lunga per quanto riguarda la progettazione di auto senza conducente, e in questo i pionieri sono stati l'Università di Parma con il suo laboratorio di visione artificiale, che si chiama VisLab, che già nel 98 aveva messo in pista un prototipo che ha percorso più di 2000 km lungo l'Italia con componenti a basso costo. Per dire, i sensori della videocamera erano forniti tramite delle componenti che facevano parte di un videocitofono. Poi nel 2010, sempre dallo stesso laboratorio, è stato messo a punto un percorso di più di 16.000 km tra Parma e Pechino, dove una carovana di veicoli senza conducenti appunto ha percorso tutta questa strada. In testa e in coda c'erano due veicoli guidati da esseri umani per coprire le parti che non erano mappate lungo il percorso. Carlo, quando si parla di futuro, di applicazioni future della tecnologia in vari settori, non si può non parlare della cosiddetta Internet of Things, cioè di quello scenario in cui tutti gli oggetti si parlano tra loro, interagiscono con noi, con le app, con i nostri device. Ecco, per quanto riguarda l'automobile, con questo scenario ci sono degli incroci? Sì, ci sono degli incroci di due tipi. Il primo tipo è proprio legato all'automobile, per cui il Dipartimento dei Trasporti americano ha messo appunto delle linee guida per una tecnologia che si chiama V2V, Vehicle to Vehicle Communication Technology, che consente alle diverse automobili di comunicare tra loro minimizzando il rischio di collisioni. All'interno di questi device, che sono di costo proporzionalmente modesto, si parla di un costo inferiore a $2,000 per veicolo, si riescono a mettere in comunicazione fra di loro i veicoli in circostanze che sono fra quelle più pericolose, nelle quali si creano la maggior parte degli incidenti, per cui nelle curve cieche piuttosto che negli svincoli autostradali o sugli incroci. I veicoli, parlando fra di loro, potranno avvertire il conducente del rischio imminente e quindi fornire delle segnalazioni di allarme per richiamare l'attenzione di chi guida. Ha fatto parlare di sé anche l'auto fai da te, una sorta di kit open source, così è stato lanciato, è stato descritto. Sì, è stata una proposta di un ingegnere italiano, si chiama Ampelio Macchi, e di un suo collega cinese, che hanno fondato una società per lo sviluppo di auto fai da te. Nella sostanza probabilmente si sono ispirati un po' alle scatole di montaggio inglesi di una volta per le auto, oppure alle nostre mitiche di ambaghi della Puma di Roma, che si trovavano sulle pagine di quattro ruote di 30-40 anni fa. Bellissimo. E adesso appunto la versione, se vogliamo dire 2.0, di questo veicolo viene reso disponibile dalla OSV Open Source Vehicle, per cui si può ordinare e ricevere a casa un insieme di componenti da assemblare alla modica cifra di €4,600, e queste componenti si possono customizzare in funzione delle esigenze personali, per cui questa vetturetta può assumere la configurazione di due o quattro posti, può essere equipaggiata con un motore elettrico piuttosto che ibrido, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le politiche sulla mobilità, chiuderei con quello, Carlo, dove avete mappato i segnali del futuro? Segnali del futuro l'abbiamo mappato qualcosa come tre giorni fa, quando c'è stato la riunione finale, a conclusione del progetto Super Hub, finanziato dalla Comunità Europea, che ha coinvolto 20 partners fra comuni, università, aziende di trasporto e società di telecomunicazione, che hanno coinvolto 1.800 volontari nelle città di Milano, Barcellona e Helsinki per lo sviluppo di un'applicazione che possa raccogliere tutti i dati sulla mobilità personale e racchiuderli in un'unica piattaforma informativa che permette al singolo utente di progettare il suo percorso urbano fissandosi degli obiettivi personali che sono stati definiti eco goal, che puntano alla riduzione delle emissioni dell'anidride carbonica. Il consumautore. Questo è lo spazio in cui raccontiamo, analizziamo, ci interroghiamo sulle piccole e grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi, dettate dalla crisi, ma non solo, sono rivoluzioni che stanno radicalmente cambiando l'atteggiamento del consumatore, le sue abitudini, le sue valutazioni, trasformandolo appunto in un consumautore. Lo facciamo di settimana in settimana in compagnia di Francesco Morace. Ciao Francesco. Buongiorno, buona domenica. Oggi di cosa ci parli? Oggi vorrei parlarvi di questo passaggio fondamentale dalla catena del valore, che è un po' la teoria su cui il mondo economico ha costruito la sua visione negli ultimi decenni, alla catena della fiducia. Quindi ciò che oggi davvero incarna il nuovo valore per le persone è la fiducia, e la fiducia è qualcosa, si sarebbe detto un tempo, è una cosa seria, e nello stesso tempo è un tema molto delicato in un paese come il nostro, in cui lo slogan che ancora oggi si propone ai nostri figli è: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cioè è il paradosso italiano della fiducia, dove sì, va bene fidarsi, ma in fondo poi nessuno si fida di nessuno. Molti dei nuovi fenomeni che passano dal web si basano sulla fiducia. Pensiamo su tutti alla sharing economy, il tema dei feedback e anche delle metriche per valutare la fiducia come asse portante di business di questo genere diventa fondamentale. Qualcuno l'ha chiamata la reputation economy, no? Perché in questo caso la reputazione conta più della visibilità, la credibilità è più importante. E pensiamo anche alle forme di crowdfunding, cioè forme di finanziamento che alla fine funzionano nel momento in cui il tuo progetto diventa un punto di riferimento per altri che non ti conoscono ma che si fidano di te e della tua idea. Ecco, questo è un passaggio che l'Italia deve assolutamente accettare per poter competere in futuro. Uno stimolo molto profondo anche su questo, Francesco. Possiamo farci una puntata nelle prossime settimane, ormai stiamo accumulando l'elenco dai tuoi stimoli di sviluppo per puntate intere. Uno stimolo, dicevo, per nuovi modi di intendere anche crescita, profitto, comunicazione, relazione con la marca, ci sta tutto un mondo. Ci sta tutto un mondo, e davvero le brand, le aziende, ma anche le agenzie creative devono capire che tornare a ragionare sulla sostanza e quindi sull'affidabilità e quindi la fiducia diventa un passaggio essenziale per tutti. Quindi meno capacità di comunicare e più invece capacità di lavorare sulla sostanza. Poi naturalmente va comunicata. Grazie a Francesco Morace. Grazie a voi. Resta solo il tempo per salutarci, ringraziare in regia Fabio Cantadori e darvi appuntamento a domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.